entrato nella tua vita per essere cambiato nell'indole, per vivere una vita di significato, per compiere il tuo dovere di creatura. Tu dovrai accettare il castigo e il giudizio di Dio. Non devi permettere alla disciplina di Dio di separarsi da te.